headlights are on. Eccoci qui, dunque, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è Prova Tecnica di trasmissione, ovviamente anche su www.ondarossa.info. Spazio esistente ormai da lontano 1992 e che ogni mercoledì va in onda fino alle 22.30. Poi ci sarà 25 o'clock. Ricordiamo anche la urgenza della sottoscrizione con il nostro metodo più classico, che è il conto corrente postale. Conto corrente postale 6180 4001, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Verevolsci 56 00185, Roma, ma sul sito della radio si possono trovare le varie modalità di adesione. Comincio a salutare una serie di personaggi abbastanza affezionati a questo spazio e anche a Disorder del lunedì sera, per cui Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Al pari di Maya ci stanno ascoltando dalla Sardegna. Cecilia di Pindar. That's the Carlo from Boston di Violet Knox. Alberto Clipper di MDMA. Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Francesco Cornello a Bergamo, Like Awake, pezzo di storia ambient qui a Roma. Tabula Rasa, Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name, Nadir Persegona di Os. La luce sia rappresentata da Sasha Rovelli, enorme realtà svizzera tra i label più interessanti degli ultimi anni. Salutiamo anche Giulia, bentornata a lei. E allora cominciamo con l'andarci a riascoltare altri due passaggi riguardanti l'ultima fatica di Daniele Santagiuliana, uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni, talento proveniente dal Veneto, così prodigo di ottimi artisti. In passato Daniele Santagiuliana lo abbiamo conosciuto soprattutto attraverso Test in Bolt, invece questa volta usa proprio il nome, il vero nome e cognome per questo ultimo lavoro dal nome La Cupa, uscito in due capitoli. Dal primo capitolo ci ascoltiamo Una Virago Nero Pece e la quarta traccia dal nome Uncini. Thank you. il pathos drammatico, l'intimismo tormentatissimo di Daniele Santagiuliana, dal titolo esemplificativo La Cupa, questo doppio lavoro per questo artista veneto, sospeso tra schegge di elettronica noise e death ambient. Vado anche a salutare Mariano in quel di Berlino, Enrico Marchegiani di Blocco 24, Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster, ormai anche loro vecchie conoscenze di questi spazi. Saluto anche a Doriana che ci sta ascoltando in quel di Taranto, se non erro. Intanto sta terminando questa Uncini, sempre dalla Cupa di Daniele Santagiuliana. Andiamo avanti. E passiamo alla sofferta introspezione di lingua ignota, Christine Eiter, lei invece americana, giunta al suo ultimo lavoro, Sinner Get Ready. Un album che ha solleticato le fantasie musicali di molti, riportandoci indietro a Diamanda Galas, a Anna von Auswolf, agli Swans, se vogliamo anche alla parte più intimista di Nick Cave, naturalmente qui al femminile. Da questo Sinner Get Ready, l'ultimo passaggio, intanto saluto 25 O'Clock che andrà in onda alle 22:30. Dicevo, per quanto riguarda lingua ignota, mandiamo Perpetual Flame of Centralia e The Solitary Breathing on Ephrata. I am covered with the blood of Jesus. Fear is nothing when the path is wrong. I rest my head in a holy kingdom. Mine is the snake of Eden. Life is a song, a song. And the fires of am covered with the blood of Jesus. Fear is nothing. You could infect other people if you get sick inside. No. People who don't go to this church. No. I'm covered in Jesus' blood. I'm covered in Jesus' but what blood. About other people who don't go to this church who you might encounter? All of these people go to this church. No, but you're going to be in places where other people I go are. To the grocery store every day. I'm in Walmart, what? Home Depot, all of those people. But you people. Could get them sick from what happens. They the could church. Get me sick, but they're not because I'm covered in his blood. Thank you very much. Arise. Finiva così Ordunque, Sinner, Get Ready di Lingua Ignota. Ricordo, dietro c'è soltanto Christine Heiter, quindi è un progetto al singolare. Christine Heiter, proveniente dagli Stati Uniti. Sinner, Get Ready, ultimo suo lavoro, che mi è venuta in mente un'altra associazione, direi obbligata, che è quella di Nico, dei vecchi Velvet Underground. Intanto saluto Roberto Faloci, ossia Phantom Ship, saluto Paolo Contucci, sintonizzato dal quadrante Roma Est, Massimo Mascheroni di Others, che manderemo verso il finale della trasmissione. Lucia Cagliazza di Lupsi. Rosa La Vita, omonimo progetto che abbiamo ascoltato mesi or sono da queste parti. Viaggio transoceanico che ci porta in India. E all'India è dedicata questa compilation di Raffaele Pezzella della sua Nespless Sounds Group Label. Incessante ricercatore di atmosfere proveniente da continenti lontani, associate e contaminate con la nuova sperimentazione, ha stampato questa Anthology of Exploratory Music from India, quindi una serie di artisti naturalmente sconosciuti, ritengo i più, Merpe primo, e quindi questa sera ascoltiamo e conosciamo Clarence Barlow con questo Until 3 to 1. Thank you. incredibile portato ipnotico di questo modo di usare le tablas. Non so se lo stesso Clarence Barlow ad usarle. Fatto sta che comunque questa era la composizione di Clarence Barlow, estratta da questa compilation dedicata alla scena sotterranea proveniente dall'India. Un vero tesoro pieno di gemme. Naturalmente vario nel suo svolgersi, come già si può intuire anche da questa traccia successiva. E le tablas mi hanno fatto venire in mente quella bella stagione che fu negli anni 90, chiamata Asian Underground, ossia l'unione di atmosfere etniche di laggiù, insieme alla drum and bass e alla techno, fenomeno che nacque soprattutto a Londra dalle generazioni di migranti successivi, ovviamente ai genitori, quindi... E fu un fenomeno molto interessante, anche se purtroppo breve. Risaluto intanto Dez De Carlo da Boston, ci sta ascoltando lì, che è pomeriggio, sono esattamente lì, mi dice, le 16:40. La ricordiamo, Dez De Carlo di Violet Knox, che ascolteremo lunedì prossimo. La salutiamo, ci sta ascoltando in automobile da Boston in questo momento. Più vicino invece c'è Wurnus Eileen dal Piemonte. Li abbracciamo entrambi. Ci andiamo ad unire invece a Michael Gira e i suoi Swans, dei quali ho ritirato fuori Soundtracks for the Blind, uno degli ultimi capitoli della prima fase creativa di questo combo newyorkese. Già si intravedeva l'unione tra noise e movenze psichedeliche. Disco lungo che si è stato concepito su due CD, e quindi dal secondo CD ci andiamo ad ascoltare a lunga traccia dal nome The Sound. Thank you. questo Carillon impazzito andava a concludere The Sound, questo lungo capitolo. Capitolo che era dentro Soundtracks for the Blind degli Swans di Michael Gira. Una vera e propria cavalcata, infatti ben si sposava con il cavallo al galoppo che ci ha messo Sara Capo Fontana come Gifs. Un lungo escursus chitarristico, e infatti è stato anche ricordato Glenn Branca, nominato assai poco da queste parti, devo dire, di questo vado a ringraziare Massimo Mascheroni. Voi conoscerete sicuramente Discogs, sito dove ci sono tutte le tracklist dei brani, le descrizioni dei gruppi. Non ultimo anche il fatto della possibilità di acquistare vinile CD. Ebbene, negli Swans ci sono scritti i componenti attuali, che sono oltre Michael Gira, almeno ad oggi Ben Frost, Chris Pravdica, Dana Schechter, Christoph Hahn, Phil Puleo, fedelissimo, e leggo tra quelli che hanno militato in passato addirittura Thurston Moore dei Sonic Youth, cose che ignoravo, e presumo che magari si siano incontrati agli esordi, già che provengono entrambi da New York. Sentire come è diverso questo passaggio rispetto al precedente, un passaggio che probabilmente ci ascolteremo il prossimo mercoledì. Intanto vado a ricordare una iniziativa di tra i tanti che farà Radio Onda Rossa al Forte Prenestino il 12 novembre. Avremo in concerto Rota De Fero e Mata, entrambi votati all'industrial, al tribalismo, all'elettronica, a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, e poi dopo ci sarà un DJ set a cura del sottoscritto e i Noc de Buspanis, altro ottimo programma del venerdì sera. Saluto Laura e Antonella, quest'ultima in Sicilia, e noi andiamo avanti con... Saluto anche Alessandra qui da Roma, e vado a tirar fuori un album che avevo colpevolmente dimenticato tempo fa, parecchio tempo fa. Avevamo ascoltato un artista, anche lui veneto, dal nome Von Tesla. Ma avendo la fortuna di avere molto materiale a casa, devo dire che questo mondo parallel era passato, diciamo, in secondo ordine, ma non per demerito, anche perché un ottimo lavoro. Questo fu il lavoro di esordio del 2011, autoprodotto, che si dipana su vertigini astratte, glitch e sicuramente grossa sperimentazione in atto, che si possono già intuire dalla prima traccia.